Notte Europea dei Musei è un'iniziativa a cui teniamo particolarmente, sia come comune di Bologna che come città metropolitana. Dallo scorso anno abbiamo deciso di aderire in questa veste così allargata e così corale e dall'anno scorso sono aumentati i comuni e i musei che fanno parte di questa offerta straordinaria che sabato 18 maggio viene presentata ai cittadini e alle cittadine, cioè 47 musei che aprono le proprie porte tra la città di Bologna e diversi comuni in area metropolitana. E aprono le porte alla bellezza dei patrimoni museali che espongono e che custodiscono e anche aprono le porte a un fiorire di attività culturali, spettacoli, incontri, concerti, visite guidate, attività anche rivolte all'infanzia, all'adolescenza, oltre che al pubblico tutto. Quindi è proprio una grande festa dell'arte, una grande festa dei musei. È un'iniziativa europea, quella della notte, appunto, europea dei musei, che è nata nel 2005 e dallo scorso anno abbiamo deciso appunto di aderire con questa grande convinzione e con questo lavoro davvero importante anche da un punto di vista e culturale e istituzionale di fare rete. Quindi i musei che aprono le loro porte con la competenza anche del personale che ci lavora sono musei privati, pubblici, universitari, nazionali, cioè sono proprio anche l'insieme, ecco, della grande ricchezza che abbiamo sul territorio e che certamente questa giornata sottolinea come un grande atlante di ciò che siamo, quindi una grande città dell'arte, della cultura e della creatività e anche una capitale davvero dell'arte. Questa giornata lo racconta molto bene. Contiene in sé l'invito di mettersi anche in viaggio, magari anche attraverso forme di mobilità culturale, anche a scoprire o riscoprire musei, magari non ancora visitati o comuni anche metropolitani non ancora visitati. E ci sono per esempio anche alcune opportunità, in particolare su Giorgio Morandi, il grande artista di cui quest'anno ricorrono i 60 anni dalla sua scomparsa, e ci sono anche possibilità, come per esempio delle navette, che potranno collegare il Museo Morandi di Bologna al Mambo con lo studio Morandi di Via Fondazza fino a Grizzana Morandi, dove poter vedere la sua casa dove d'estate risiedeva i fienili del Campiaro. Quindi sono anche possibilità, appunto, organizzate per fare esperienze anche culturali insieme, e sono più di 100 gli appuntamenti che arricchiscono l'apertura, appunto, dei 47 musei, degli spazi culturali coinvolti, oltre Bologna, Bentivoglio, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Imola, Marzabotto, Monghidoro, E Monte questi San quali sono Pietro. il pubblico a cui sono rivolti? È un pubblico in particolare? Si è ampliato rispetto all'anno scorso? L'invito è al pubblico nella sua ampiezza, quindi da chi frequenta i musei, chi non li frequenta, dai più piccoli e le più piccole, gli adolescenti e la cittadinanza tutta. Quest'anno abbiamo deciso di coinvolgere anche in maniera attiva gli adolescenti e le adolescenti in particolare, con un progetto che trovo molto importante con gli studenti e le studentesse della scuola Laura Bassi, che hanno partecipato a un percorso di mediatori culturali, e quindi saranno loro a raccontare al pubblico la collezione di Mambo. Quindi hanno fatto un percorso di lettura, ecco, della collezione del Museo Mambo, e saranno loro a raccontarla al pubblico. Ecco, credo che in questa iniziativa si racchiuda molto anche il senso per noi di trasmettere l'adesione, l'importanza, anche l'avvicinamento appunto ai musei e al loro patrimonio, e anche di metterci in ascolto di come gli adolescenti e le adolescenti leggono anche le opere d'arte che lì vi sono contenuti. Quindi questo è anche un tassello, insomma, progettuale dentro alla grande offerta della Notte Europea dei Musei, a cui teniamo molto.